vogliamo sentire smarriti. La strada è sempre dritta, Death Valley, i rischi siamo noi, non voler incontrarli. Qualcuno grida che la vita è bella, ma poi ci si accontenta davvero il nome sulla Nutella, ed è sempre quella. Passaggio veloce da triciclo a carrozzella, alla fine sarò una foto sul cartellone, vicino ad una chiesa o alla parete del comune. Gran persona, calma e buona, lavoro, famiglia e di figli bravi a scuola. Altri vecchi si fermeranno a guardarmi, occhi stanchi ed increduli di chi non mi ha mai visto. Non lo conoscevo, triste ma vero, era più vecchio di me, o almeno questo spero. Recensioni invisibili offuscano la mente, il posto di imparare a nuotare, mi chiami salva gente. Per questo stiamo in mezzo alla gente, se anche gli altri lo fanno non sono deficiente. Recensioni invisibili offuscano la mente, il posto di imparare a nuotare, mi chiami salva gente. Per questo stiamo in mezzo alla gente, se anche gli altri lo fanno non sono deficiente. Passare dal manuale d'amore all'amore manuale, sai, può capitare. Non andare a male se la vita a quanto pare è un anello di fuoco dopo un salto mortale. La vita è una fila, la life una waitila, nasci e muori sempre con la testa nella figa. Ma se lo fai tu posso farlo pure io, questo è un parere mio e di tanti ma stantio. Puzza di muffa come una scatola scaduta, come il piatto dove mangi quando qualcuno ci sputa. E lo Stato non ti aiuta, una richiesta ripetuta, tocca alzarsi da soli dall'ennesima caduta. Sanzioni invisibili